Non stamma di noi, già l'hanno parlato. Non so parano, e sulle la serenata. Accompagnato, non mu malassato. In una dai, non des noi si vegliato. Come già dici, ma scrive tu perché sai. Ma che già dici, che tu mi piace più assai. Ma come già fa, si stanno meglio con l'altro. È passato l'anno, ci amma fa stambascia. È passato l'anno, ci amma fa stambascia. Acum este vandei, scrive tu vechea sa. Ma ca așa rășin, ca tu mă piace cea sa. Ma cum a cea fals, îi spângă mai tu cu te. E pasat un an, ne musă la ta sa be. E poșa la bine, ceva sa mă ciu fort. Eu mai n-a voi cu infina, rima fina mort. Tu faci ca vii, si stai pe la lângă mor. Oamnă să ciură la fort, se-nvoi sa la bobur tu. Ma già dici, ma scrive tu perché sai. Ma che già dici, che tu mi piace più assai. Ma come già fa, because I don't understand. Da pacche nascisce in the palm of my hand. Ma che già scrivi, mi parli tu perché sai. Ma che già dici, che tu mi piace più assai. Ma come già fa, I don't understand. Perché la verità è che stungo meglio con te. Shots.